sul marciapiede, là in alto, ancora due finestre accese. Un taxi accosta, sembra quasi fatto apposta. Nell'auto o nel letto, qua c'è bisogno di contatto. Un clacson che suona sotto questa luna. Ma tu dove sei? Spegnimi il noise, accendimi il mondo e via da questi guai. Solo io e te. Basta una sosta e due bicchieri anche di carta, coi sogni sbiaditi da conti e giorni complicati. La fame di strada, troppi schermi ce l'hanno rubata. Vetrine già spente quando il sole scende. Ma tu dove sei? Spegnimi il noise, accendimi. Solo io e te. Fosse l'ultima notte, così com'è. Tra miliardi di stelle, ovunque sia, portami via da questo mondo a fior di pelle. Solo io e te, così com'è. Così com'è.